fondo, larga coppia delle pubblicazioni Mille Piani, Mille Piani Urban, Etropia France, alcune cose della Calusca che vi invito caldamente ad acquistare, anche perché poi in rete è difficile trovarle a distanza di tempo. E il numero di Mille Piani in discussione oggi in qualche modo conclude un percorso e ne inizia un altro. È un numero fortemente posizionato e fortemente volto al futuro, a realizzare un passo ulteriore in una riflessione che dura ormai da molti anni, che è iniziata in questo intorno, nella rete di relazioni che ha accompagnato la vita della Calusca, e che rete di relazioni che è riuscita anche a resistere alla scomparsa di Primo. In qualche modo l'intenzione originaria è stata mantenuta, e questo soprattutto negli Recording ultimi... is on. Non compriamo niente. Soprattutto in questi ultimi due anni, in cui la possibilità di attraversare questo posto, uscire dall'isolamento, insomma, è stata una possibilità benefica per noi, ma anche per tanti che ci sono stati intorno. Altro non dico, torno in cucina e buon lavoro. Grazie Roberto, grazie. Allora, intanto buona domenica, buongiorno a tutti. È molto insolito trovarsi insomma in un momento così, ma davvero questo intervento in presenza l'abbiamo fortemente voluto, sapendo il rischio, che è stato poi concreto, di continuare a dover rimandare per via della pandemia e delle costrizioni e quant'altro. Allora, io dirò poche cose di apertura e poi spiego un po' come abbiamo organizzato questa prima sessione. La prima cosa è che questo è il terzo seminario che facciamo dopo la pubblicazione presso Manifesto Libri del volume 42 di Mille Piani, e che è un po' il punto sintesi. Roberto faceva bene a sottolineare prima, forse Milano sta segnando, come poche altre città in Italia in questo momento, la crisi, no, di relazioni e produzione, proprio perché la pandemia ha in qualche modo accelerato ciò che era già in essere, e quindi questo luogo, che ha rilanciato con forza tutta una serie di iniziative e di programmi, è rimasto un luogo che ha avuto la capacità non solo di resistere, a mio avviso, ma di rilanciare iniziative e saperi, sapendo bene con che cosa abbiamo a che fare, sulla qualcosa poi spenderò brevi parole. Che dire, la giornata l'abbiamo pensata, organizzata così: un primo giro breve di interventi che andranno un po' a spiegare le sezioni di questo volume, poi un momento di connessione con Cosimo, che è Lisi, che si trova a Parigi e che è intervenuto sulla questione dell'igienismo e dell'urbano. Apriamo alle domande e ritorniamo sulle questioni. Ecco, questo per dire. Io appena avrò terminato lascerò brevemente la parola a Dubaldo per spiegare un po' il senso di questo numero, che davvero chiude e apre nuove piste di ricerca che però insomma avevamo maturato nel tempo. E poi chiamerei intanto Ivan ed Elsa, di cui vedete le opere allestite dall'entrata a qui e che hanno lavorato insomma con noi con molta generosità, a presentare il senso di questo lavoro. Passo velocemente alla questione di questo numero. noi ci occupiamo, ci siamo occupati e continueremo ad occuparci da molti anni di ecologia, ma abbiamo sentito già dagli ultimi numeri che lo schiacciamento dell'ecologia politica per noi, della ricerca cioè di percorsi di sapere critico, venivano vieppiù recuperati all'interno di narrazioni ecologiste assolutamente depotenziate. Che cosa voglio dire con questo? Che nel mentre la questione ambientale certo esplodeva, nel mentre si producevano gli effetti della pandemia, nel mentre lo schiacciamento e sbriciolamento delle attività lavorative, produttive e delle soggettività, nonché delle relazioni, venivano messe a crisi, in quel mentre la narrazione green, la narrazione ecologica, non solo era, come dire, un dispositivo estetizzante e modaiolo, ma addirittura un dispositivo di recupero pesante. In che termini? Nei termini che, insomma, quello che viene definito da più parti il capitale estrattivo aveva ben capito e ben colto l'ordine della scommessa in corso. Del resto, se viene addirittura attivato un ministero per la transizione ecologica, forse siamo ben consapevoli che in quel contesto lì non si apre per noi, per quanto personalmente mi e ci riguarda, una prospettiva che rimetta al centro che cosa? Che cosa ci manca? Con che cosa abbiamo a che fare? Abbiamo a che fare con una crisi di strumenti, di comprensione, di analisi e di progettazione che provengono da certo lunghe e importanti e nobili tradizioni, ma che soccombono nell'oggi ad una interpretazione, se non in alcuni ambiti e con alcune lodevoli eccezioni, all'idea dominante che nulla vi sia più da fare, che da questo modello non vi è fuoriuscita, che generazionalmente e anche le generazioni a venire resteranno schiacciate all'interno di questa presa, che è una presa di selezione umana e del vivente, perché poi le cose vanno chiamate col loro nome. E per noi, proprio in questo senso, l'ambientalismo tout court ci è sembrato un vicolo cieco. La questione dell'ambientalismo come ritorno al paesaggio, ritorno alla natura da riportare in città, non solo in sé abbastanza, come dire, sì, una buona azione, un buon strumento di autoeducazione, ma che è davvero molto consolatorio e religioso nel suo intimo perché. Quello che è più importante è puntare allora lo sguardo su una critica del quotidiano. Poi su questo penso che Ubaldo preciserà il discorso. Cioè, vuol dire che si può stare in questa fase, in questo presente, avendo la cognizione di causa molto precisa che alcune scommesse hanno perso, no, una loro ragione d'essere e di disegnare orizzonti, ma che allargare crepe necessarie, spazi incidentati, il tema di oggi è non a caso l'incidente, sia il modo di continuare ad operare qui ed ora e non in una prospettiva chissà quale, di allargamento progressivo di spazi che sono relazionali, di diritti, di istituzioni, di libertà. Non possiamo muoverci fuori da questa, come dire, intima e profonda comprensione di un oggi che altrimenti procede per scacciamenti. Molti sono i conflitti aperti in corso, molti sono, come dire, i segnali di forte disagio sociale che però vengono immediatamente depotenziati laddove una comunicazione agisce come sistema governamentale e soprattutto di prescrizione e di controllo. Quindi per noi il passaggio è da un piano ecologico-politico, quello sì lo manteniamo e con forza, che viene da una tradizione nobile, che è quella di Gattari, di Gorz, ma anche del pensiero libertario che in quegli anni dialogava. Recording is on. Con quanto di più no, vivace poteva esprimersi anche in un contesto del marxismo critico e del pensiero critico. Queste sono le nostre provenienze, ma sappiamo di essere di fronte anche a un bisogno di autodeterminazione, e uso qualche cosa che viene di più, lo so, dalla sponda libertaria che messianica, e in questa autodeterminazione la questione ambientale non può che riconnettersi necessariamente con quella rottura degli spazi recintati, direbbe la Federici, che su questo a mio avviso è una fra le menti più lucide in questo momento, in cui il problema del capitale supera, no, anche alcune analisi marxiane e li riposiziona dentro delle interrogazioni che sono quelle che poi rimandano al piano certo dei commons, certo delle istituzioni, eccetera, eccetera. Molti sono gli autori, le autrici che hanno nutrito questo volume. Al pensiero femminista, in maniera non vieta e non parolaia, leghiamo un importante percorso a cui poi è stata dedicata la terza sezione, sviluppata da Elvira Vannini e Marco Scottini, e che poi vi renderanno noto di questo, ma insomma, da Haraway, Stenger, Federici, Anzaldúa, abbiamo tutto un percorso di donne che, a partire da una immediata presa di, come dire, rapporto con le urgenze dell'oggi, rilanciano in maniera assolutamente non assoggettata. Non assoggettarsi vuol dire però riprendere in mano i saperi. E questo è un po' anche il motivo di un ripensare ai prossimi numeri di Mille Piani in direzione di strutture di formazione. Cosa vuol dire? Che torniamo a pensare a strutture seminariali dove iniziamo a scambiarceli questi saperi, a non frammentarli, a non essere isole narcisisticamente posizionate che non interloquiscono. C'è un bisogno di passaggio, di incontro che non avviene più. E questo è un po' l'intento a venire. Prima di passare rapidamente la parola a Ubaldo, sempre sull'introduzione, ricordo che anche oggi è l'anniversario di Alexander Langer, pensatore spesso obliato, che come dire, invece aveva aperto con una sensibilità assolutamente importante rispetto alle urgenze e ai conflitti del suo tempo, come dire, qualche cosa che poi è stato rapidamente messo a lato. Allora, posso tenere la mano? Allora, grazie a Tiziana, grazie a tutti, a tutti voi, e grazie al contesto, che è un contesto, è inutile dirlo, che mi è, ma è a tutti noi particolarmente caro. Niente, io avevo preparato un intervento abbastanza articolato e cercherò di sintetizzarlo in modo da essere abbastanza rapido, evitando incidenti naturali se possibile. Vediamo un attimo, ecco, Mille Piani, l'ha già detto Tiziana, ha una lunga storia alle spalle, no? Siamo nati all'inizio degli anni 90 e spesso e volentieri, appunto, io, ma insomma tutti noi siamo transitati qui, è un luogo che ci è particolarmente caro, per noi molto molto veramente importante. E come ha sottolineato Tiziana nel suo intervento, nella sua premessa, ecco, negli anni 90 noi abbiamo avuto forse anche in maniera un po' azzardata, un po' spregiudicata, abbiamo avuto un occhio di riguardo nei confronti, appunto, dei territori, dell'ecologia politica o anche della ecosofia nella versione di Guattari. Ecologia politica per noi, insomma, adesso non soltanto, ma per noi valeva soprattutto la lezione di André Gorz, e in quest'ottica, in questa prospettiva, qui io ho trovato in una conversazione dei primi anni zero un bel passo di Gorz che appartiene proprio agli anni 90, che io cercherò di complicare per proiettarlo almeno in parte sul presente, è riferito all'atmosfera degli anni 90, insomma di quegli anni lì, dei primi anni zero, e in questo passo Gorz ci fornisce una fenomenologia del nostro presente, del nostro tempo. Ripeto, siamo fine anni 90, primi anni zero. E è un passo efficace, è un passo, diciamo, nel quale ci possiamo riconoscere, naturalmente va storicizzato. Dice Gorz, oggi a cadere a pezzi è la società basata sul lavoro salariato. A estinguersi è il contratto sociale di tipo socialdemocratico o cristiano sociale. Il riferimento è alla Germania, all'Austria, insomma, di quel periodo, insomma, quindi capite il richiamo anche soprattutto al contratto sociale di tipo cristiano sociale, no? Appunto, contratto di tipo cristiano sociale, e in Germania e in Austria era un contratto che risentiva, no? Di che cosa? Dell'affermazione nella Germania del dopoguerra del cosiddetto ordo liberalismo, no? Che era già lì presente, ben attrezzato e sistemato nella Germania del dopoguerra, poi ha avuto la fortuna o purtroppo che sappiamo. A estinguersi è questo contratto che credeva di addomesticare il capitalismo e di poter conciliare lavoro e capitale. Continua. Dappertutto assistiamo allo smantellamento dello Stato sociale, dei contratti di lavoro, del diritto di lavoro. Assistiamo alla scomparsa di condizioni lavorative regolamentate e di posti di lavoro garantiti. Ovunque dilagano a vista d'occhio rapporti di lavoro precari, flessibilità, mobilità, individualismo, tutto si sviluppa in direzione di una società di mercato, come la chiamava Polanyi, che vi scorgeva nella società di mercato una non società, tutto piuttosto che una vera e propria società. Il lavoro, finisco il passo, il lavoro che oggi viene concepito come lavoro retribuito, a cui già Marx contrapponeva l'attività individuale o l'attività autonoma, il lavoro cessa di essere il terreno su cui è possibile costruire la propria vita e i propri progetti futuri. Passo di una chiarezza esemplare, no? Cioè un passo che in effetti riassume molti, almeno così a grandi linee, molti percorsi di ricerca, anche quello di Millepiani, no? Come percorso di ricerca si può riconoscere, no? in questa traiettoria. Ecco, è una fenomenologia questa, no? E quindi che cosa mette in luce? Mette in luce fondamentalmente che c'è una perdita che risulta sempre più marcata di centralità del lavoro salariato. Cosa significa questa perdita? Significa che c'è un'impossibilità concreta, un'impossibilità materiale ad assegnare, no, come accadeva in passato, al lavoro salariato, no, il compito di formare identità, senso di vita e appartenenze. Tutto ciò che qualifica socialmente l'esistenza, no, viene meno con la scomparsa di questa centralità. Non che il lavoro salariato scompare la sua centralità. Viene meno quella continuità, no, che garantiva appunto tutte queste prestazioni che qui Gorz ci ricorda. Il lavoro diventa discontinuo. Il lavoro diventa discontinuo, si caratterizza per una sua discontinuità di fondo. Poi sappiamo, in parte è stata anche la scommessa di tanti di noi, sappiamo che questa discontinuità, che qui appare marcata in senso negativo, questa discontinuità appunto la si sollecita, un po' anche la si stressa ulteriormente, cercando di piegarla in un senso positivo, no? Gorz fa questo. No, fa questo, poi con la proposta allora del reddito di base, no? Perché chiaramente se il lavoro è discontinuo ci sono dei tempi che in parte si liberano, no? E questi tempi, per essere gestiti nel modo più produttivo, tra virgolette, possibile, più felice, più soddisfacente possibile, questi tempi devono essere accompagnati comunque dal reddito, in grado di supportare e sostenere tutte quelle iniziative, diciamo, che non sono, sono sottratte in un qualche modo alla legge del plusvalore. Ecco, questo per ripetere in maniera noiosissima, dire ancora una volta, utilizzando Gorz, lo strumentalizzo un attimo per darvi un'idea, insomma, della nostra impresa collettiva, no? Del lavoro che abbiamo portato avanti nel corso ormai di decenni. Quindi Mille Piani è, in parte, perché ci sono stati in Mille Piani altri fronti, altri piani appunto di ricerca, ma insomma oggi lo possiamo dire, Mille Piani è stato anche e soprattutto, rapidissimo, ecologia politica, Gorz, se vogliamo un nome, no, chiaramente Gorz e altri, però vi dico Gorz perché sono partito da Gorz, e poi Ecosofia Guattari. E con l'idea già allora ripresa dalle tre ecologie di Guattari, con l'idea che insomma se si parla di ecologia non si può fare soltanto ecologia ambientale, bisogna, per fare anche bene in maniera soddisfacente ecologia ambientale, bisogna fare ecologia mentale ed ecologia sociale. Se si fa soltanto ecologia ambientale, no, si viene fulminati, si fanno cattivi incontri e si va a finire su strade pessime, no? Bisogna tenere insieme ecologia ambientale, ecologia mentale e ecologia sociale. Questa è la grande lezione, no? dello studioso francese, che significa di fatto, proiettandoci un po' sul nostro presente, che natura e cultura vanno tenute insieme, che se si qualifica qualche cosa giustamente, come si fa sempre più spesso, come natural culturale, si dice qualche cosa di sensato, di ben attrezzato teoricamente, e comunque si riconosce la presenza del naturale, non lo si affoga, diciamo così, no? In quelle mode che sono state mode non soltanto teoriche di successo degli anni 80 e degli anni 90, no? Che vedevano soltanto la cultura, no? Qui si parla invece di natura e cultura insieme, no? Si caratterizza addirittura l'essere umano come un essere natural culturale, il che significa che è una sorta di ibrido l'essere umano, no? È l'effetto e il risultato di una combinazione di natura, perché siamo questo, siamo materia, siamo corpo, siamo sangue, e poi cultura, rimaniamo su questo ragionamento a maglie larghissime. Chiaramente l'impresa, diciamo così, di Mille Piani in questa particolare direzione di attenzione e di interesse appunto alla ecologia politica e alla ecosofia, ecco, questa impresa, la nostra impresa, aveva anche dei precedenti, insomma, teorici, non soltanto teorici, ma anche militanti di un certo significato, almeno per noi, no? Recentemente è stato ripubblicato, non so se l'avete visto, L'imbroglio ecologico di Dario Pacino, no? Ecco, una figura, una presenza importante, una figura che poi, diciamo, esprimeva un contesto di attenzioni, no? diffuso, ecco, è anche fondamentalmente plurale. È stato ristampato anche, sono stati ristampati un paio di interventi di O'Connor, cioè il teorico della crisi, no, fiscale dello Stato, no, anni 70, per chi ormai ha i pochi capelli bianchi come sottoscritto, no, era una lettura imprescindibile, insomma, no? O'Connor e la crisi fiscale dello Stato. Però O'Connor è stato anche colui che ha messo in piedi negli anni 80, alla fine degli anni 70, poi negli anni 80, negli anni 90, insomma, ha messo in piedi una sorta di, come posso dire, ecomarxismo critico, una riflessione sulle due contraddizioni fondamentali. La prima, alla quale purtroppo siamo affezionati, quella tra capitale e lavoro, la seconda quella tra capitale e natura, no? Perché è vero, come è stato scritto da poco, insomma, che noi, spacciamoci così, come umanità abbiamo un nemico, no? Come umanità, ma anche la natura ce l'ha, e anche in parte quindi noi, e questo nemico è il capitale, no? O'Connor è stato tra i primi, fino agli anni 70, anni 80 e 90, a insistere sulle due contraddizioni, cioè qualsiasi discorso critico e radicale, no, deve certamente ragionare sulle trasformazioni, insomma, no, della dipendenza, insomma, del lavoro dal capitale, ma deve anche ragionare e riflettere, no, su questa seconda dipendenza, no, sempre più accentuata, della natura rispetto a quelle che sono le logiche di articolazione anche nuova, insomma, della produzione di valori, della produzione di ricchezza. Ecco, in questo testo, in quest'ottica, nel libro che abbiamo curato, che Tiziana ha curato insieme al sottoscritto, richiamo, ma non perché qui è accanto a me, l'importanza soprattutto del testo di Tiziana, che si impegna, a mio modo di vedere, in una opportuna critica, no, dell'ecologia politica, in una opportuna critica dell'ecologia politica. Magari su questo poi Tiziana dirai qualche cosa di più, perché mi sembra un elemento di vera e propria importanza, cioè è il tentativo, diciamo, di procedere sulla base di queste nostre tradizioni teoriche e politiche insieme di riferimento, è il tentativo di procedere, di andare un po' più avanti, prendendo atto di quello che ovviamente è successo negli ultimi tempi, negli ultimi anni, poi anche con l'esperienza che abbiamo della contingenza particolare, no? nella quale stiamo vivendo. Altra, poi dimmi, Tiziana, quando se vado troppo lungo, magari poi su altre cose ritornerò successivamente. Mi è capitato ultimamente, rispetto appunto alla tentazione propria di alcuni studiosi, di alcune studiose, di alcuni amici, di gettare lo sguardo, di portare l'attenzione soprattutto sul motivo dell'ambiente, diciamo così, della natura, adesso semplifico, mi è capitato di intervenire un attimo a gamba tesa, proprio ricordandomi della lezione di Guattari, insomma, no? Che non è sufficiente l'ecologia ambientale, no? Bisogna mettere in campo altro insieme a, per andare poi a ragionare anche, no, su che cosa sta avvenendo in ciò che etichettiamo, definiamo come naturale. Mi è capitato di entrare a gamba tesa perché mi sono ricordato, avendoci lavorato per raccattare un po' di reddito qualche anno fa, parecchi anni fa, mi sono ricordato di una operazione tentata messa in piedi da uno storico tedesco, diciamo comunque rilevante, di peso, di spessore, non particolarmente simpatico, tra virgolette, non vicino alla mia sensibilità, immagino anche alla vostra, a uno storico tedesco che si chiamava Ernst Nolte, forse ve lo ricordate, storico di qualità, di spessore, ma diciamo piegato a volte in maniera molto molto nervosa verso orizzonti e prese di posizione, insomma, abbastanza discutibili. Però che cosa ha fatto questo di interessante per me? Ve lo riporto. Che cosa ha fatto di interessante Nolte? A un certo punto si è messo, da storico, ma da uomo di grande cultura, a studiare Nietzsche. Ha scritto un libro molto importante, serio, su Nietzsche, che avevo cominciato anche a tradurre, appunto per avere un po' di reddito. E in questo testo, che è stato pubblicato dalla Sansoni, in questo testo Nolte fa un'operazione che mi è venuta in mente quando ho avvertito indeterminate attenzioni di amici, amiche ecologiste, un pericolo, un rischio che si stava correndo. Che cosa ha fatto Nolte in quel testo su Nietzsche? Ha visto in Nietzsche il fondatore di un vero e proprio partito della vita, che nel Novecento si è delineato in alternativa e in contrapposizione, immaginate che cosa, al partito della classe, no? Al partito della classe, partito della vita contro partito della classe, no? Nel senso tragico che sapete, no? Ma insomma, partito della vita, adesso è inutile trovare anche i precedenti filosofici, storico-filosofici, insomma, di una tale affermazione. Partito della vita contro partito della classe. Quindi reazione borghese alla rivoluzione d'ottobre, alla affermazione, no, del partito della classe. Quindi partito della vita contro partito della classe. Ecco, a me questo è venuto in mente perché in certe posizioni io vedo anche, come posso dire, la tentazione di schierarsi a favore di un partito della vita, vedasi partito della natura, partito della natura, partito della natura contro partito della classe, partito della vita contro il partito della classe. Lasciamo perdere un attimo la contrapposizione che è anche storicamente, come posso dire, determinata e magari lascia anche almeno in parte il tempo che trova, no, come contrapposizione. Partito della natura, ecco, partito, prendiamolo come partito della vita, prendiamo sul serio, no? Prendiamo sul serio l'importanza della natura, l'importanza della vita, nel senso anche richiamato da Guattari, per rimanere su qualche cosa di solido, no? che conosciamo tutti. E qui che cosa abbiamo, anch'io in parte ho tentato di fare con Mille Piani? Ho tentato di cercare di qualificare, forse poi l'ho anche squalificato, questo partito della vita meglio della natura, nel mio caso, nel nostro caso, come una richiesta di attenzione nei confronti non tanto della vita in sé o della natura in sé, ma meglio della vita quotidiana. Vediamo un attimo appunto di confrontarci con quelle trasformazioni, quindi superando, saltando la contrapposizione partito della vita contro partito della classe, no? Che era molto strumentale inoltre, che insomma andava preso appunto con grande cautela, perché evidentemente la sua era una posizione chiaramente, tipicamente reazionaria, no? Cioè rivolta a dare un po' di dignità, insomma, teorica a scelte politiche dichiaratamente reazionarie, no? Reazionarie. Però prendiamo sul serio questo discorso sulla vita e sulla natura, cerchiamo di piegarlo in una direzione più vicina a quello che vi ho richiamato partendo da Gorz, partendo da Gorz, cerchiamo di prenderlo sul serio. Ci sono nel Novecento delle tradizioni che possiamo recuperare, che possiamo fare nostre, anche per affrontare che cosa? quelle trasformazioni della vita quotidiana che non sono soltanto quelle provocate dalla pandemia, in realtà sono trasformazioni che hanno una storia alle spalle abbastanza lunga, di qualche decennio. Ci sono delle tradizioni del Novecento che ci possono dare una mano ad affrontare le trasformazioni della vita quotidiana, no? Soprattutto riferite a che cosa? A quello che Gorza ci indica, vale a dire la perdita di centralità del lavoro salariato, no? E l'affermazione di un lavoro invece discontinuo. Male questo, ma che se si riesce politicamente, no, a marcare con l'introduzione di un reddito di base, allora ecco che forse, no, il discontinuo, il discorso del frattempo, il frattempo può essere anche tradotto in un qualche cosa di positivo. Quali sono queste tradizioni? Così chiudo il ragionamento molto molto parziale, perché poi se avrò la possibilità dirò altro. Quali sono queste tradizioni di riferimento che in Mille Piani hanno trovato di nuovo un po' di ospitalità? Sono le tradizioni appunto della critica della vita quotidiana, quindi la tradizione, diciamo, francese, no? A partire da Lefebvre e poi scivolando, arrivando a Debord e poi andando anche oltre. Ma non c'è soltanto questa tradizione particolarmente cara a noi, ce ne sono anche altre di tradizioni, diciamo, di ricerca, di critica della vita quotidiana. Pensate alla cosiddetta scuola di Budapest, no? Che aveva un altro mondo di riferimento, ma forse anche e soprattutto per questo motivo oggi va ripresa in considerazione. Aveva un altro mondo di relazione, di riferimento, siamo negli anni 70, 60-70 del secolo scorso, quindi c'era ancora, no, il blocco, il cosiddetto, tra virgolette, socialismo reale, e quindi quello era il mondo di riferimento, no? Da impattare anche con grande coraggio, insomma non era facile impattarlo criticamente, quel mondo lì. Quindi la scuola, gli allievi di Lukács, no? Pensate, adesso in Italia noi conosciamo la Heller, no? Quindi la teorica dei bisogni, vi ricordate, no? Anni 70, fine anni 70, e quel discorso lì ha preso piede anche da noi, insomma, la teoria dei bisogni. Poi c'era, in un altro mondo c'era Marcuse, ma insomma lo stesso Gorz, c'era Illich, insomma c'erano, era una nota che accompagnava molti dei discorsi, dei discorsi dell'epoca. Ecco, quindi critica della vita quotidiana, non semplicemente sociologia della vita quotidiana, critica della vita quotidiana che appunto, se rimandata, rinviata alla perdita di centralità del lavoro salariato, che cosa ci restituisce del nostro quotidiano, diciamo, nelle società più avanzate? Ci restituisce un quotidiano frammentato, reso discontinuo, dove non si fa altro che lavorare, no? Non si fa altro che lavorare, come molti di noi hanno fatto, anche se magari non sembrava di farlo durante il lockdown, no? Durante la pandemia, stando 24 ore su 24 connessi davanti a uno schermo con il telefonino in mano, insomma, ecco. Quindi critica della vita quotidiana che mette al centro, e qui veramente chiudo, scusate, la sto facendo anche troppo lunga, mette veramente al centro che cosa? La risultante di stanchezza, di stanchezza, no? Che viene fuori, no? Quella stanchezza che ci accompagna e che non viene mai, diciamo, risolta, superata in una qualche modalità, in una qualche maniera. E quando c'è stanchezza, c'è anche, ci insegnano i classici nostri di riferimento filosofici, c'è anche la stupidità, ma è una stupidità che rischia poi di diventare, come sostenevano Adorno e Horkheimer quasi un secolo fa, rischia di diventare bassezza d'animo, se non viene gestita nel modo corretto, nel modo giusto. Stupidità, stanchezza, no? E qui va bene, possiamo fare richiami richiami a, non so, mi viene in mente Sennett, no? Richard Sennett, per prendere un sociologo, diciamo così, democratico, non particolarmente radicale, ma importante nel segnalare tutte queste complicazioni del nostro vivere quotidiano lavorativo, nella presa d'atto, no? Che nella nostra società, se c'è qualche cosa che sta perdendo centralità, è il lavoro salariato, ma non nel senso che scompare il lavoro e scompare il lavoro nella forma, nella modalità della dipendenza, sia ben chiaro, no? Questa perdita di centralità significa semplicemente che al posto di una continuità si manifesta una discontinuità, no? Che è drammatica poi da gestire, da governare da parte degli interessati. Però in questa negatività c'è anche forse la possibilità, se si trova la forza politica, no? Di portare avanti il ragionamento, si apre forse, si dà anche la possibilità di avanzare delle richieste importanti. Mi fermo qui, ho detto poco della nostra impresa collettiva, ma un piccolo aspetto sì, forse l'ho colto. Grazie, grazie Ubaldo. Allora io procederei così, adesso chiamerei qui Elsa Finardi e Ivan Bedeschi, che hanno allestito questa zona, come vedete anche l'entrata, venite. Perché spiego anche un'attenzione che Mille Piani ha un po' sempre avuto con l'intreccio, chiamiamolo, delle discipline estetiche e dell'estetica, con quello che nobilmente chiamiamo la capacità di creazione. E non abbiamo mai voluto ospitare, come dire, in maniera aggiuntiva, no, delle sensibilità artistiche, delle riflessioni creative artistiche, ma abbiamo cercato di intrecciare questi snodi che stiamo cercando di illustrare con sensibilità che ci sono sembrate molto prossime, sapendo che il mondo dell'arte è fra i primi a essere stati, come dire, promotori talora, no? Di una omologazione, e quindi ciò ha voluto dire anche cercare ed esplorare alleanze non facili. Per cui io, dopo che loro avranno presentato il lavoro, chiamerei qui Elvira Vannini e Marco Scottini, che ci spiegano il senso di un'intera sezione, d'accordo? Prego. Sì, diciamo che in quest'ultimo periodo entrambi ci siamo basati e abbiamo studiato la questione della malattia, intesa come questione legata all'alterità, a un'alterità che appunto si rinchiude all'interno di quello che viene definito la selezione del vivente. Per noi è importante appunto capire come, anche nel caso della malattia, l'esclusione da parte della società normativa, capitalista, patriarcale, coloniale, sia stata poi sia una costante anche all'interno di corpi che soffrono, che dalla società stessa vengono definiti anormati. Ma come dice Elsa, questa modalità di esclusione rimane parte resistente all'interno dei corpi che cercano di emanciparsi attraverso lotte politiche. E questo, secondo me, è un po' la chiave del lavoro di oggi. Io propongo dei quadri, dei collage, questi che vedete alle nostre spalle sono disegni che sono tratti da Morire di classe, un libro di Franco Basaglia, che appunto scopre che nel contesto manicomiale la maggior parte o quasi la totalità dei detenuti sono di origine proletaria. E con ciò abbiamo delle prime foto in questo libro che c'è in archivio di quello che la condizione manicomiale rappresentava. L'istituzione manicomiale è un'istituzione totalitaria che perpetua quella che è la selezione del vivente, e infatti i basagliani lavorano per la dissoluzione totale del manicomio, che trova in Trieste un percorso autogestito di consapevolezza e conoscenza della malattia mentale che si perpetua ancora oggi come uno spazio anti-istituzionale. Volevo dire una cosa che non ricordo. Ecco, ho nel libro che chiamo La riscrittura della malattia, che probabilmente pubblicheremo entro settembre, propongo le analisi di Basaglia, che attinge dalla fenomenologia e dall'esistenzialismo possibilità di scoperta della malattia mentale, ma che da cui si distacca totalmente in funzione appunto di un'analisi medica ma più sociale, in cui presento le malattie, diciamo le più due grosse categorie che Basaglia scopre, cioè la neurastenia e il nevrotismo, come dispositivi disciplinari legati all'istituzione manicomiale. E quindi forse da questo punto di vista possiamo permetterci forse di rivedere la figura basagliana sotto un punto di vista di relazioni di potere, non che prima non fosse così, ma distoglierci da questa questione della malattia che, a cui oggi si presentano varie categorie, diciamo, più specifiche, ma permettono comunque la lettura della sua visione della condizione manicomiale sotto un punto di vista di relazioni di potere. Prego, eccoci. Mentre per quanto mi riguarda, il lavoro che ho voluto fare io è stato quello di stampare delle fotografie di campi e cascine della zona in cui abito io, vicino alla provincia di Bergamo, e queste foto sono intervallate da parti estratte anche dalla mia tesi, che appunto si intitola Se una rosa, dove all'interno di questa mia tesi quello che ho voluto fare è la ricerca si concentra sulla decostruzione del significato di corpo malato per una sua riscrittura etico-politica. Questo per farlo ho, diciamo, analizzato delle categorie che sono quelle della violenza, appunto, dell'alterità, come diceva Ivan. Ho preso in analisi anche gli studi sulla disabilità, questi che in Italia ancora sono poco conosciuti, per arrivare poi al dolore animale come ripartenza possibile per questa, appunto, riscrittura del corpo malato. Quindi queste frasi che intervengono attraverso le fotografie, secondo me, sono importanti perché queste alleanze che si vengono a creare tra i corpi e l'ambiente, che non è mai una questione neutra, così come non lo sono i corpi, è possibile così una ripartenza, una sorta di, appunto, alleanza e coesione tra, appunto, l'ambiente e i nostri corpi. E per farlo, secondo me, la questione, appunto, delle cascine, la questione rurale, è forse uno dei primi passi necessari per questo ritorno comunitario e di autodeterminazione dei corpi possibile, insomma. Grazie, come vedete siamo anche una banda larga, nel senso che accogliamo sempre delle sollecitazioni. Mi assumo la responsabilità della selezione del vivente, che so essere stata lanciata come una pietra di difficile gestione, e per dire che, appunto, siamo anche un ambito che si è voluto, uso impropriamente Benjamin, poroso, in maniera selettiva, molto selettiva, ma poroso, cioè aperto alle intuizioni, agli ambiti di ricerca seri, a quelli che interrogano percorsi, appunto, dove delle soggettività e sensibilità si annunciano come fratture necessarie nel presente. E adesso chiederei cortesemente a Elvira Vannini e Marco Scottini di venire per spiegarci il perché di questa importante sezione. Prendiamo il discorso senso più ampio, diciamo chiaramente l'estetica, il paradigma estetico è sia il campo mio che del Vira, e quindi credo appunto rientrerà nel nostro discorso in più modi. Comunque grazie a Tiziana e Ubaldo e grazie al Cox per averci ospitato oggi, e ancora grazie a Tiziana e Ubaldo per averci inserito appunto nell'ultimo numero di Mille Piani, in cui siamo intervenuti io e Elvira Vannini a quattro mani con un testo che si chiama Madame la Terre et Monsieur le Capital. Elvira fa Madame la Terre, io faccio Monsieur le Capital, è lessico ecofemminista. E naturalmente abbiamo, come dire, cercato di declinare la tematica dell'ecosofia politica e dell'ecologia all'interno di una geopolitica precisa. Spesso appunto, come dire, nonostante tutto si continua a fare dell'Occidente come dire, il centro propulsore innervante di tutto il sistema globale, quindi ci limitiamo sempre, come dire, a un'analisi occidentale dell'Occidente e comprensiva appunto dell'estensione anche della modernità a tutte le latitudini del mondo. Da anni, e soprattutto per un mio movimento in Asia, nel sud-est asiatico, abbiamo cercato appunto in questo testo di valutare, come dire, l'ecologia sia all'interno di una geopolitica precisa come l'Asia e sia all'interno di un'altra, di un altro ambito che continuiamo a chiamare geopolitico, che è quello del femminismo, no? In qualche modo un'altra terra. Che più volte emersa durante appunto il secolo scorso e che in qualche modo in questo momento richiede assolutamente un'attenzione particolare, ma come appunto il resto delle questioni geopolitiche. Quindi si è trattato di partire dal deserto del Gobi e di valutare appunto tutto un rapporto che ha a che fare con le forme d'espressione, ma con le forme del lavoro e con appunto le diciamo così un decentramento e un'eccentricità del fenomeno. Anche perché, come dire, un aspetto che forse sembra più normale è quello di un'analisi della relazione con la natura, e cioè che tipo di relazione in qualche modo come dire, il resto del mondo ha avuto con la natura. Decolonizzare appunto la natura ha significato anche questo, no? Il termine natura, però credo un altro aspetto fondamentale invece anche a che fare con la tecnica, e cioè non solo che cos'è la tecnica e quindi la tecnologia nella sua versione attuale per noi, ma che cos'è la tecnica diciamo e quindi la tecnica per il resto del mondo, e in questo caso il sud-est asiatico, e quindi che cos'è il prometeismo, se c'è mai stato nel resto del mondo, e quindi qual è appunto anche da questo punto di vista, e quali forme epistemologiche possiamo attraverso quali forme epistemologiche possiamo ripensare sia appunto una interpretazione del rapporto uomo-natura, sia appunto il rapporto uomo-tecnica dall'altro lato e natura-tecnica dall'altro lato. Però credo che oggi né io né Elvira vogliamo parlare di questi aspetti, tanto sono appunto sia all'interno dell'ultimo numero di Mille Piani, poi appunto abbiamo dedicato a questo aspetto anche molti altri testi, interventi ed esposizioni. Ma il problema, secondo me, come accennava, poi lascio la parola a Elvira Vannini, poi ritornerò, ma insomma, come spiegava prima, all'inizio, Tiziana Villani, mi pare si sia completamente spostato rispetto a molti ambiti. Tiziana, diciamo con molto ottimismo, chiama delle narrative depotenziate quelle che in qualche modo sono all'ordine del giorno e che stanno snaturando in qualche modo un discorso originario e di tipo antagonista. Io non penso che si tratti di depotenziamento, si tratta dell'affermazione dell'esatto opposto e quindi si tratta in qualche modo dell'affermazione di un pensiero capovolto. Naturalmente rispetto a questo ci sono stati moltissimi fenomeni, ma insomma il macroscopico è stata la pandemia, per cui ci siamo svegliati tutti, il fenomeno era già stato ampiamente preannunciato, ma in sostanza ci siamo svegliati medicalizzati e militarizzati, aggiungerei un'altra M, e mediatizzati, senza via d'uscita, come dicevi te, nel senso che pur essendo noi passati attraverso varie ricerche di ecosofia politica ed ecologia, almeno da un po' l'interesse del mio discorso verte su quello che soprattutto il Gattaridi Kaosmovic chiamava ecologia del virtuale. Perché credo che come dire, l'affermazione o la domanda fondamentale che ci dobbiamo fare in questo momento è che fine ha fatto il possibile. No, questo mi pare, come dire, il presupposto necessario, diciamo, a ogni discorso di matrice ambientalista o ecologista e che naturalmente deve tenere in alto conto una dimensione del capitale estrattivo, come accennava Tiziana prima, e la sua capacità di estrazione appunto di capitale anche da un pensiero antagonista. Dico ci siamo svegliati medicalizzati anche nell'accezione di Illich e militarizzati perché credo da un certo punto di vista, come dire, ogni azione antagonista è giorno dopo giorno interdetta, e cioè mostre che potevo presentare ancora con qualche censura nel 2014 a Istanbul sono stato richiamato, non sono più assolutamente presentabili. In Cina ho saputo convivere con tutta una serie di censure per 3 anni, ma credo che il fenomeno stia diventando ampiamente europeo, basta vedere appunto come dire, le ultimi fenomeni di resistenza nei confronti della Palestina a Parigi e come appunto la militarizzazione abbia costretto e interdetto e come ormai stia interdicendo veramente ogni tipo di azione antagonista. Questo è vero per l'azione, dall'altra parte il pensiero. Il pensiero credo che come dire, sia diventato totalmente ineffettuale se non cambiamo determinate condizioni, cioè nel senso non so veramente se ha senso continuare a formulare idee per dei brand che vengono immediatamente brandizzati e vengono capovolti e non depotenziati dal mio punto di vista, come diceva appunto Tiziana prima. E quindi come dire, l'ecologia, l'aspetto dell'ecologia veramente più interessante è come ritrovare le possibilità di pensare il possibile come tale. Questo secondo me è veramente una condizione fondamentale. La mia impressione in questo momento è anche, diciamo, dopo 2 anni che abbiamo in qualche modo, come dire, abbiamo sottaciuto e obbedito, diciamo, a una condizione sì che è stata monotecnica, monolinguistica, chiamatela come vi pare, credo che poi entri veramente non solo nel cervello ma nei corpi anche delle persone questa condizione e stento a vedere veramente in questo momento come dire, un possibile all'altezza della situazione. Quindi tutto lo sforzo che in questo momento stiamo facendo anche rispetto a tematiche come quella dell'ecologia non è soltanto aprire al possibile con indagini diciamo fuori dell'Occidente, no? Per cercare magari sì, fonti alternative, no? Per poter pensare una genealogia delle cose, ma anche rispetto, come dire, a una ecologia qui e ora, come diceva Tiziana all'inizio, che dovrebbe riportare, come dire, anche all'interno del pensiero un discorso di tipo antagonista. E quando dico un discorso di tipo antagonista e critico, chiaramente questo va fatto con nomi e cognomi, con amici e nemici, nella maniera più assoluta, altrimenti non penso che un pensiero che si limiti alla versione positiva o esiliante, come si diceva qualche tempo fa, possa ancora funzionare all'interno del capitale estrattivo della conoscenza per come lo pensiamo oggi. ma non solo appunto della conoscenza, ma veramente del possibile, il possibile precatturato prima che diventi attuale, il virtuale precatturato prima che diventi attuale. Quindi credo che lavorare a questa modalità di ecologia sia una condizione fondamentale e quindi, come dire, anche contributi critici che possano essere decostruttivi nei confronti delle situazioni e in qualche modo non limitarci come si pensava fino a poco tempo fa, attraverso un pensiero dell'esilio, no, a porre accanto un pensiero alternativo a quello che alternativo non è. Quindi come recuperare un antagonismo in qualche modo che parta da un possibile e si riconfronti nuovamente all'interno di dinamiche d'azione, di dinamiche di pensiero. Questo lo sto provando per Istanbul Biennale, dove appunto vorrei portare delle modalità antagoniste dentro un contesto, come sapete, non accetta antagonismo in questo momento, e, però questo è un po' la posta in gioco, credo, della realtà contemporanea. Ritorno su questi argomenti, appunto, come vi dicevo, la domanda per noi fondamentale è a che fine ha fatto il possibile. Abbiamo vissuto tanti episodi. Il primo episodio che mi ricordo, e da questo punto di vista inviterei Tiziana e Ubaldo non tanto a raccontare i contenuti di Mille Piani dagli anni 90 ora, ma a raccontare l'ambiente che in qualche modo stava attorno, stava fuori Mille Piani. Questo mi sembra più interessante, perché credo appunto che questa natura estrattivista del capitale, che si è mossa verso l'immateriale poi in una determinata dimensione, come dire, si sia munito di strumenti piuttosto consistenti e che non c'erano chiaramente allora a quella data, e quindi appunto era possibile avere un pensiero antagonista anche come dire, proprio in termini di esilio e di uscita. Quindi uno dei primi episodi, come vi dicevo, è stato proprio in coincidenza con la crisi finanziaria 2007-2008, e qui all'isola Garibaldi Repubblica, dove insieme a Bertheis e insieme a Tiziana per 10 anni abbiamo fatto un'operazione di resistenza contro quello che vedete attualmente, no? Questo appunto make up del landscape di Milano. E noi avevamo fatto, in collaborazione con Group Material, che aveva fatto la stessa mostra all'inizio degli anni 80 in un quartiere portoricano di New York, abbiamo fatto una mostra The People's Choice, la scelta della gente, con la collaborazione veramente della comunità dell'isola. Dopo qualche anno ci siamo trovati che i progetti della gente era diventato lo slogan di Stefano Boeri, che poi appunto è stato la forma legittimante anche di questa mostro ecologico che è il bosco verticale, e della Fondazione Catella. Quindi come dire, cioè questo capovolgimento, la scelta della gente era appunto a partire da un contesto d'opposizione antagonista, e la collaborazione con la comunità è immediatamente diventato i progetti della gente, e è diventato non un depotenziamento della nostra azione, ma è diventato esattamente l'opposto. Però vorrei lasciare appunto la parola a Elvira, perché abbiamo, come dire, cumulato, fatto una lista non di doglianze, ma in qualche modo di presa di coscienza del fenomeno attraverso tutta una serie di altri e numerosissimi esempi. Grazie Tiziano, Baldo, a tutti e a tutti che siete qui e che ci ascoltate online. E, sì, diciamo, rispetto al contributo in catalogo, che in un certo senso è, nella situazione emergenziale della pandemia dello scorso anno, ci ha dato spunti di riflessione rispetto ai punti di contatto tra la critica femminista ed ecologica, nel proprio messa a valore delle soggettività, delle nostre vite, dei corpi, dell'ambiente, eccetera. E quindi, anziché affrontare una parte di esperienze, di eccedenze che si trovano all'interno del volume, che riguardano, come accennava Marco, il sud-est asiatico, il cosiddetto sud globale, con opere potenti che operano una forte critica al capitalismo razziale e all'eteropatriarcato, in realtà l'urgenza di questi giorni, almeno a nostro avviso, è in relazione all'espropriazione della cultura, dell'arte e di una serie di pratiche di lotta che stanno avvenendo e che potremmo sottotitolare quasi la razza e il genere, i nuovi monopoli dell'arte, e rendono, cioè pongono comunque l'urgenza di una riflessione da affrontare ora, nella misura appunto anche di questo momento di confronto e di discussione. E, è stato pubblicato recentemente un testo di Anna Curcio che ha intitolato Le differenze del capitale, proprio per mettere a fuoco il funzionamento capitalistico del genere e della razza, che non aprono più spazi antagonisti, ma di fatto funzionano secondo una compatibilità capitalistica. Lei porta degli esempi insomma noti da quando l'ordine del discorso femminista e antirazzista ha conquistato il mainstream, dai media, quindi dalla risonanza mediatica, anche a la politica istituzionale, da Kamala Harris a, porta appunto come esempio Angela Davis, che da ricercata dell'FBI è diventata icona dell'antirazzismo con la copertina su Vanity Fair, o comunque il Time l'ha inserita tra le 100 donne più potenti al mondo. Oppure Silvia Federici, che rispetto alla sua critica serrata e forte contro l'esproprio capitalistico del lavoro riproduttivo delle donne, ha conquistato invece le pagine del New York Times in una diciamo sola intervista. Leggendo quell'articolo c'è stato un po' diciamo una sorta di squarcio in relazione a una dinamica che nel sistema artistico, che comunque dentro, contro, in vari modi attraversiamo, e ha portato appunto a una vera e propria diciamo cattura di immaginari e linguaggi di rottura che vengono cooptati dentro un sistema di soggettivazione neoliberale e patriarcale. Quindi la questione qual è? Complice anche la banalizzazione dei social e la totale disarmante assenza di pensiero critico, parlo perlomeno per quanto riguarda il sistema artistico-culturale in generale, il mondo dell'arte non ha resistito appunto al richiamo delle differenze del capitale, tanto che potremmo elencare, proprio per ricondurre anche il mio lavoro rispetto alle pratiche e un'analisi critica di questi sistemi, cioè non si contano dai fashion show femministi promossi da Dior, contro cui mi ero espressa già con insomma asprezza, fino a le soggettività queer catturate da Gucci in spot di lusso, dove Preciado parla della sovversione del genere insieme a insomma tutto il contesto che sappiamo di Gucci, per poi arrivare all'ultimo caso che ha riguardato diciamo poche settimane fa, la nomina in rosa, quindi con tutte le retoriche su appunto il femminile, il fatto che essere una donna sia già di per sé un'istanza appunto politica di cambiamento, per quanto riguarda la questione delle quote rosa, mercato, del pinkwashing, tutto quello che occupa quotidianamente, e almeno parlo per quanto riguarda il dibattito critico, il dibattito nel mondo artistico, poco critico. E la appunto diciamo futura direttrice della Biennale di Venezia ha diciamo proposto un concetto curatoriale e un titolo che richiama appunto alla magia e che cita di nuovo Silvia Federici con Reincantare il mondo, usato però come fuga e evasione dalla realtà e come e non lotta, o comunque un reimmaginare appunto un nuovo rapporto con la vita, con la natura, con la terra, con la creatività, che è qualcosa che diciamo cioè come ridistribuzione sociale diffusa che appartiene a tutti, non a un'elite o a un'oligarchia di potere dentro il sistema dell'arte, di cui appunto conosciamo, quando prima Marco diceva i nemici, cioè non sono figure astratte ma incarnate in precise appunto relazioni di potere, rapporti di forza che si appropriano continuamente, e quindi da lì l'idea di cambiare un po' e il discorso di oggi, proprio appellandoci al sottotitolo dell'evento, che è espressione dell'evento di oggi, che è appunto espressione artistica e critica del presente. Quindi quale possibile critica del presente? Come l'arte, il paradigma estetico, cioè o comunque le funzioni creative, sociali, e, cioè, in che termini possono sfuggire diciamo, possono diventare incatturabili o comunque sfuggire a questa sussunzione che ha raggiunto veramente livelli insomma pericolosi, in quanto non è più possibile distinguere, come appunto diceva Marco, il nemico dall'amico, la controparte da tutta una serie di esperienze di questo tipo. Quindi non so quanto, cioè di fatto ne emerge anche un po' una sorta di disincanto in relazione al fatto che alla difficoltà e all'inadeguatezza dell'arte di porsi come strumento di riflessione critica rispetto alle questioni del presente. Quindi c'è una ricerca che va avanti, che attraversa appunto le nostre esperienze e soggettività, che porta a temporalità storiche a differenti latitudini, che poi nel momento in cui vengono reintrodotte in un circuito con cui ci confrontiamo sono continuamente soggette a questa espropriazione violenta che va comunque denunciata con gli strumenti che abbiamo, che sono pochi, almeno parlo per me, e quindi il rischio è quello di, cioè, di fatto ragionare, fare analisi politiche eccetera, per poi pensare nuovi strumenti, nuove armi, e non poterle utilizzare. Ecco. Grazie Elvira. Io direi che nel proseguo, ma intanto qualche cosa inseriamo. Allora, intanto quanto sollevato da Marco Elvira adesso, a mio avviso, quindi parlo in prima persona, non concerne solo l'ambito artistico. Forse nell'ambito artistico questo si produce con un'efficacia, un'immediatezza più forte. E il tentativo di porre oggi la questione, infatti, della critica del presente ha a che vedere, a mio avviso, con un problema, per dirla con molta franchezza, che parte da ambiti prossimi a noi, ai nostri, ambiti nei quali i meccanismi di espropriazione, falsificazione, sottrazione vengono messi in atto allorquando si cade, come siamo caduti, nel tempo della miseria. Che cosa intendo dire con il tempo della miseria? Nel tempo in cui il conflitto, un sentire antagonista, un sentire altro, insomma, non trova più rete di scambio e di collocazione, cioè non crea più una rete relazionale forte, che sia in ascolto e non in postura narcisistica e autoreferenziale. Beh, questo è il primo movimento di delega agli apparati di cattura, che sono sempre stati pronti. Marco diceva, forse negli anni in cui avete iniziato, sì e sì no. Noi siamo stati lungamente, per dire, attaccati perché non disciplinati ad ambiti di appartenenza immediatamente collocabili e grammatizzati. Voglio dire che, per esempio, per noi la scelta del nomadismo come prima apertura era una chiara scelta verso una dimensione plurale e non immediatamente esodista come lo era stata per altri. L'attenzione al pensiero libertario, anche vista con un qualche sospetto. Voglio dire, aver navigato anche in solitaria per molti momenti quelle acque, in qualche modo personalmente mi dà la forza di ripensare che certo adesso l'apparato di cattura è più veloce, perché siamo in una dimensione accelerata, tecnicamente accelerata, e che mai come ora siamo di fronte a meccanismi di trasformazione, controllo e grammatiche dominanti, fra cui una serie, no, di termini, razza, genere, ma anche resilienza, ma anche and so on, che veramente sono grammatiche del dominio, va bene, continuano a lavorare in direzione di una sottrazione di spazi. Allora, io sono su questo fortemente convinta che se non rinnestiamo una rete generosa di formazione e sapere in spazi, abbiamo bisogno di luoghi, non si può prescindere, no? Questa dematerializzazione che stiamo vivendo, a me per contro rimanda il fatto che non è un caso che se su Milano c'è questo posto e molti altri sono silenti, un motivo c'è. Questo è uno spazio concreto, materiale, geograficamente capace ancora di esprimere e di ripensarsi, con tutti i limiti, per carità. Idem vale per questa navigazione. Una critica del presente si fa se riusciamo a riconoscere il nemico, come al solito, anche in colui che magari ci è prossimo, e si nutre in maniera vampiresca del pensiero altrui. Lì si perde potenziarlo, perché ne vengono fuori povertà, miserie, parole sbriciolate nella loro forza d'impatto, perché non cercano l'impatto. Ritorneremo, insomma, è veramente stata per noi una rottura che, è chiaro, poniamo in un tempo terribile. No, sono d'accordo con te sulla rottura. Il problema attuale è che la controparte è assimilata alla parte. E come naturalmente, cioè, riponi un'attenzione di tipo epistemologico su questa, appunto, espropriazione. Cioè, il problema non è essere criticati o essere fuori o essere dentro, il problema è essere, come dire, assimilati o sussunti dentro un'altra situazione che è l'esatto opposto di quella che tu stai formulando. Questo mi pare il problema attuale. Cioè, non si tratta, come dire, di rottura con una tradizione piuttosto che un'altra, è la questione che stiamo lavorando per la brandizzazione, appunto, di un sistema. E naturalmente la matrice è chiaramente economica, ma naturalmente, come si sa bene al momento, diciamo, poi i costrutti ideologici passano e sono molto più ampi di quello che potevamo chiamare banalmente e ingenuamente anni fa il mercato. Cioè, non siamo più di fronte a questo aspetto qui, si tratta veramente, cioè, immediatamente della sussunzione di un pensiero antagonista da un certo punto di vista, e dall'altro lato si tratta della sottrazione di spazi dell'azione antagonista, nel senso che ormai si è ristretto talmente tanto la nostra possibilità di intervento. Naturalmente, come dire, quello che è accaduto immediatamente prima della pandemia poteva fare assolutamente ben sperare, se io penso appunto al Cile, se io penso al movimento degli ombrelli in Hong Kong, se penso al movimento appunto indiano, no? Dove milioni di persone erano ritornati. Dopodiché appunto ci troviamo, come dicevo prima, nuovamente militarizzati e medicalizzati, no? All'interno, diciamo, di un'altra rete dove vedo veramente difficile, no, la possibilità di venirne fuori. Cioè, quali sono veramente gli strumenti che ci permettono di pensare il possibile e quindi, come dire, un antagonismo che non possa essere immediatamente sussunto? Certo, ma io direi che adesso su questo, per non accaparrare, poi torniamo, perché il punto è dirimente. Io poi credo che ci siano situazioni che non sono sussumibili, che infatti stanno venendo duramente colpite. Ma torniamo nel dibattito, se va bene per tutti, nel secondo giro. Chiamerei intanto qui Pier Giorgio e Cosimo, che è da Parigi, e quindi per chieder loro di precisare il loro contributo sull'igienismo e l'urbano. E Pier Giorgio, che peraltro ha lungamente lavorato prima di questo numero con mia sollecitazione sull'Hunger, che abbiamo voluto proporre in Francia, perché è dimenticato qui, in quanto appunto poco sussumibile lui, povero. E invece sul virtuale, con ricaduta su Virilio, perché qui abbiamo, come dire, dietro questo grande tema un pensatore, anche lui in questo momento non a caso tra quelli che non sono così recuperabili, ma che per noi è stato fonte di nutrimento. E Cosimo, ci sei? Sì, sì, mi sentite? Mi sentite? Ah, io non vi sento invece, no. Ah, adesso sì. Ottimo. Ok. Allora, sì, grazie a tutti e avrei voluto essere presente lì con voi, ma ora utilizzo, diciamo, anche questi mezzi per poter intervenire. Allora, io nel numero del in questo numero di Mille Piani sono intervenuto a partire da delle ricerche che sto effettuando sull'urbano e sulla il paradigma igienista, ma in realtà partendo anche da una problematica contemporanea, dal riutilizzo a partire dalla crisi pandemica dell'anno scorso, nel dibattito sulle politiche urbane internazionale, sia negli Stati Uniti che in Europa, tematiche igieniste, ovvero della necessità di intervenire in termini di critici verso la densità urbana per quindi risolvere quindi dei problematiche legati alla crisi pandemica. E queste argomentazioni igieniste quindi riprendevano mi sono quindi posto la necessità di riprendere un po' la storia, anche di vedere lo sviluppo del pensiero igienista, soprattutto a partire dal contesto francese, che è quello dove che ha avuto visto sorgere questo pensiero. E prima di sviluppare alcune tappe importanti dello sviluppo di questo del dispositivo igienista, allora chiariamo quindi, per definire cos'è l'igienismo, riprendo una definizione di Stefan Kiefer in un'intervista che io e Duccio Scotini abbiamo pubblicato su un giornale militante francese, Acta Zone. Stefan Kiefer, geografo e urbanista canadese, di cui con Tiziana abbiamo pubblicato un libro 2 anni fa, definiva appunto l'igienismo come ideologia sanitaria che trasforma, come una narrazione, quindi che trasforma un'analisi medica e sociale delle condizioni di salute degli abitanti in ideologia sanitaria, che considera le classi subalterne, i popoli colonizzati, come elementi patogeni, soprattutto se si concentrano nei loro habitat geografici naturali, ovvero la folla, le baracche, i sobborghi, le bidonville, le periferie. Quindi l'igienismo, in quanto ideologia sanitaria, comporta un determinismo spaziale che afferma che la forma urbana sarebbe la causa dei problemi sociali. Da questo vengono dedotte delle soluzioni spaziali che tengono innanzitutto a separare le classi dominanti o gli amministratori coloniali da una parte, dalle classi popolari o dai popoli colonizzati. Su queste strategie, spesso cercano anche di dissolvere l'habitat popolare stesso. Quindi l'igienismo si inserisce nella razionalizzazione del controllo dell'urbano che ha caratterizzato la modernità capitalista, traducendosi in processi di segregazione e atomizzazione. Il dispositivo igienista però è un dispositivo di presa sul corpo sociale in quanto spazio urbano e sui corpi individuali come controllo delle condotte. Ricapitolando in maniera quindi breve le tappe fondamentali che hanno visto lo sviluppo di questo dispositivo, l'igienismo nasce in Francia all'inizio del XIX secolo in relazione allo sviluppo delle prime forme di industrializzazione, e si pone innanzitutto come una medicina urbana, quindi come una forma di patologizzazione dell'urbano che è visto come, matrice che produce la disordine e malattia. Alla base di tutta la teoria igienista c'è sempre una matrice ruralista, neoruralista, che vede l'ideale del rurale. Facciamo riprendere. Sì. Mandiamo avanti allora il tuo intervento, magari per Giorgio. Sì. Dopo, prego. Bene, vabbè. Grazie a Tiziano, Ubaldo, a tutti e a tutti, grazie agli amici del Cox per l'ospitalità di questa giornata. E, allora, il mio intervento, anzi il mio testo su questo numero di Mille Piani verteva appunto su Langer, che è stata in realtà una scelta, un po' una scoperta sollecitata da Tiziana negli anni passati. Langer è una figura imprescindibile alla fine per i movimenti ecologici, soprattutto in Italia, ma che troppo spesso, per la maggior parte anche dei militanti oggi, passa di sottecchio, praticamente sconosciuta. In sostanza Langer è la persona che ha dato vita poi ai movimenti ecologici qua in Italia, chiamato messia anche dei movimenti ecologici, e che si è impegnato parecchio nelle movimentazioni prima che il Movimento dei Verdi diventasse parlamentare, quindi quando il Movimento dei Verdi era partitico ed era spalmato sul territorio. E diciamo che l'interesse su Langer è il fatto che fin da principio lui notò una certa deriva, appunto, di sussunzione dei temi dell'ecologia da parte del mercato, e dando molta attenzione poi all'impostazione dei territori come luoghi da abitare, luoghi in cui costruire poi dei principi di lotta e di organizzazione sociale. Il testo su Mille Piani io avevo scelto di improntarlo su questa dimensione della contrazione che Langer auspicava per i movimenti ecologici, dove contrazione in realtà non è né una questione di decelerazione né una questione di ridurre per certi versi l'impatto, di ridurre per certi versi gli impatti, ma è quello di costruire dei meccanismi, dei tempi, dei ritmi che possano determinare poi una coesione sociale, una coesione di persone, un collettivo capace di agire in questi termini. Per questo a me è sembrato che interessante da affrontare fosse una questione delle distanze, quindi di come si può determinare uno spazio, di come si determina uno spazio di prossimità e di cosa significa distanze. Per questo poi anche la figura di Virilio, su cui Ubaldo tra l'altro ha lavorato tantissimo, risulta particolarmente importante. La questione del territorio è che anche la questione della prossimità è una questione che sta venendo sussunta e virata negli ultimi anni, anche in una città come Milano, dove ormai si parla tantissimo di la città dei 15 minuti, per esempio. dove c'è questa cosa che viene chiamata la rinascita dei quartieri, ma manca completamente in sostanza una dimensione comunitaria, perché la dimensione comunitaria poi viene virata su aspetti che sono quelli dei servizi, su aspetti che comunque sono sempre quelli del commercio, e non quello di una produzione alla fine di comunità amicali, no? E, in questo senso, e appunto dicevo prima, l'importanza di Virilio è un'analisi delle velocità, ma soprattutto anche un'analisi dello spazio, no? Per cui per Virilio lo spazio risulta accidentale oppure incidentale, no? Quindi come lo spazio esiste per convergenza, sostanzialmente per una convergenza di eventi. C'è un piccolo brandello di Virilio all'inizio di Orizzonte Negativo, che è il saggio sulla dromoscopia, che secondo me è interessante perché apre a un altro tipo di sguardo, un altro tipo di visione sui territori, dove lui parla di una geografia del frastagliamento in cui implodono i punti di vista. Perché uno dei presupposti di Virilio, e che comunque accompagna, forse racchiude un po' anche tutta la sua produzione intellettuale, tutta la sua avventura di pensiero, è quella che poi lui ha chiamato ecologia grigia. Ovvero Virilio sosteneva a buone ragioni che non si possono considerare separate un certo inquinamento delle sostanze rispetto a un certo inquinamento delle distanze. E qua ad essere centrale è il posizionamento o la disposizione che ha un territorio rispetto poi alle possibilità o alle disposizioni dei corpi all'interno dei territori per poterli vivere. Di fatto poi forse una domanda che accompagna o comunque è presente in tutta la ricerca virigliana è un po' quella di come poter abitare questo mondo quando il mondo si ritrova a essere sempre più rimpicciolito, il mondo si ritrova a essere più ristretto e la vita si trova a essere ubiqua, sballottata, senza spazi di respiro, costantemente sussunta. E la questione delle distanze, dell'inquinamento delle distanze è particolarmente interessante perché alla fine è un discorso sulle scale, su delle ampiezze anche, su delle ampiezze intensive, nel senso che architetti e designer probabilmente lo sanno bene, tra l'altro ovviamente la formazione di Virilio arriva dall'architettura, quindi no, è anche una maniera di poter leggere poi tutto questo discorso sulla... cioè che cosa significa un'ecologia grigia, ovvero che le scale di rappresentazione sono ampiezze, sono sostanzialmente regimi di visibilità. Qualcosa si vede, qualcosa no, qualcosa si perde, qualcosa meno, quindi è un'impostazione dello sguardo a determinare poi tanto quali possano essere le relazioni all'interno di un territorio, sia l'intendere il territorio come un coagulo di determinate relazioni. Per questo le distanze di cui parla Virilio non sono solamente distanze fisiche, ma sono distanze cognitive, sostanzialmente, sono distanze di pensiero. Cosa si può pensare guardando una determinata distanza, cosa si perde e cosa rimane. Non è un discorso forse così diverso dal pensare una mappa, no? Cioè la mappa non è il territorio, la mappa è un meccanismo di determinazione che lascia fuori necessariamente qualcosa. E... di fatto poi è appunto un altro tema che comunque ricorre, che è importante per la questione delle distanze dell'ecologia grigia, è cosa è la finitudine, no? Nei seminari di La Rochelle Virilio dice abbastanza esplicitamente che seminari che poi sono pubblicati con il titolo di Ecologie Gris, dice esplicitamente che l'ecologia grigia si occupa di confrontarsi con un mondo e con le sue finitudini, no? Per arrivare poi a dire che una finitudine è quando una mela è una mela, quando un uomo è un uomo, quando un mondo è un mondo, no? Quindi a venir meno sostanzialmente sono delle ampiezze che sono pure ampiezze di senso, no? Per certi versi si può ricondurre a una dimensione della velocità, cioè quando passa un corpo ciò che rimane è solamente un'immagine fugace, per certi versi, senza dettagli, senza altre possibilità di apparire se non quelle incidentali. E io penso che da questo discorso, ovvero anche dall'importanza di capire che lo spazio alla fine è necessario per un certo disporsi dell'individuo, così come lo spazio e il territorio non vanno considerati né come fondo né forse come spazi, come fondali neutrali, ma in realtà sono spazi da convivere sostanzialmente, cioè sono spazi con cui ci si confronta e con cui si ha una relazione bionivoca. E quindi interessante a questo punto, qui anche rispetto al discorso di una città dei 15 minuti, è come si può pensare lo spazio e come si può pensare anche il termine di località, per esempio. Perché il termine di località, stando a quanto detto finora, alla fine parliamo di uno spazio che avviene per convergenza di eventi, che può essere accidentale, incidentale, che altro. E qua è interessante anche ricondurre poi a Gattari, quando nelle tre ecologie parla di cercare di sostituire, cioè di pensare per una logica intensiva, di intensità, che appunto chiama ecologica, no? Pensare per una logica di intensità significa cercare di articolare alla fine livelli di esperienza differenti, livelli di esperienza differenti e di velocità differenti, quindi pensare, cioè riuscire ad avere uno sguardo che non consideri una scala d'ampiezza unica, ma ne consideri, le consideri plurali. Quindi cosa succede quando all'interno di un territorio che è un piccolo pezzetto di biosfera, come diceva Langer, per esempio, questo pezzetto di biosfera in realtà è inevitabilmente collegato, connesso, causale, rispetto anche a tutto il resto degli spazi che non mi sono immediatamente prossimi. E un'altra suggestione interessante, per esempio, è che se lo spazio è in questo senso eventuale, quindi prodotto per una convergenza di eventi, rispetto a una critica del quotidiano che prima Ubaldo anche, di cui Ubaldo parlava, sulle Lefebvre, per esempio, sulla ritm analisi, che è una produzione dello spazio per ritmi, no? Quindi come avviene uno spazio con un corpo in movimento, con uno sguardo in movimento. Il problema d'oggi, sostanzialmente poi provato sulla pelle di tutti anche durante la pandemia, durante il lockdown, è che lo spazio si è estremamente rimpicciolito, nonostante poi tenda a frantumarsi e per certi versi a liquefarsi anche in quello che poi è il virtuale o il digitale. E a questo proposito Virilio, secondo me, suggerisce, come dicevo prima, all'inizio di Orizzonte Negativo, questa geografia del frastagliamento, che è un'implosione dei punti di vista, che secondo me è una visione poetica e anche un meccanismo d'azione per riuscire a ripensare che cosa significhi territorio oggi, no? Virilio parla, qua lo leggo, parla di una geografia del frastagliamento che mi offriva le sorprese e le scoperte di un vero e proprio viaggio in miniatura. Presto quella pozzanghera di spazio prenderà l'aspetto di un istmo, di una penisola di vuoto. È uno spazio che io formo e deformo, queste frazioni di vuoto, queste brecce, queste cavità, è un gioco di costruzioni che elaboro senza accessori, semplicemente stando qui o là. E qui subentra chiaramente una centralità del corpo all'interno dello spazio che è completamente diversa rispetto all'approccio che oggi abbiamo con i territori. La maggior parte sono territori di transito, quindi sono territori che o perdono di intensità oppure che l'intensità ce l'hanno rispetto ad altre ampiezze che sono quelli magari di produzione del capitale. Penso per esempio a territori da cui vengo io, che sono la Bassa Lodigiana, che sono territori completamente sull'orlo di essere sussunti da quello che è lo sprawl urbano, quindi cioè, parliamo veramente di territori, quelli che potremmo chiamare spazi velocità, che sono relativi a una logistica. Relativi a una logistica sono spazi poco intensivi dal punto di vista della vita e dal punto di vista anche di una relazione amicale, e che sono spazi che solamente si vedono passare, insomma, il finestrino. Io direi che ho chiuso. Grazie, grazie Pier Giorgio. Proviamo a vedere se Cosimo è di nuovo con noi e lo facciamo. No, non si riesce. Magari lanciamo nel secondo giro dopo le domande e proviamo. Magari se gli mandi, sì, chiami un secondo. Sì, grazie. Nel frattempo io suggerirei di fare così, se ci va bene a tutti. Sono state poste diverse questioni e diverse interrogazioni. Io chiederei intanto, insomma, di avere uno scambio proprio di vedute prima di far partire un secondo giro, perché insomma credo che alcuni snodi in questa critica del presente, chiudendo non a caso con Virilio, mi permetto solo di dire una cosa, insomma, nella prossima Biennale di Architettura, che francamente è Tristanzuola, c'è però proprio nel padiglione libanese la presentazione di un gruppo che abbiamo fondato in Francia, di un diciamo centro che è il museo dell'accident, museo dell'incidente, attorno al quale gravita anche una collana rivista che si chiama Dromologie e della quale fanno parte attivisti, architetti, militanti che si misurano variamente con la questione del virtuale, che insomma Virilio con Deleuze e con altri hanno inteso declinare come ciò che è in potenza, ciò che accade. Poi Virilio questo si disciplina e si coniuga anche con l'approccio suo ingegneristico, che guarda alla dimensione militare, che appunto disegna un certo tipo di incidente. E adesso voglio dire, in molte sue esposizioni questo discorso dell'incidente ripercorre la catastrofe, le catastrofi, e di cui questa non è che la curva forse più dura per il lungo periodo che ci prospetta. Siamo d'accordo che quindi possiamo magari aprire un giro di interrogazioni. Chiederei a Ubaldo di raggiungermi per non lasciarmi totalmente in solitaria e poi ridare a tutti la parola chiamandovi così come siamo intervenuti precedentemente. Vi prego, non siate timidi, eh? Se non c'è, io direi che possiamo continuare a dialogare come abbiamo fatto poc'anzi, magari in maniera più interlocutoria, un po' come si era iniziato a fare, però dovreste venire qui Marco, Elvira e Pier Giorgio e facciamo un tavolo di dibattito. Sì, come volete, più che altro magari faccio io passare il microfono, ok? Vuoi riprendere un attimo tu da alcune questioni, Ubaldo, poi sì, porto io il microfono. Vediamo se ce la faccio. No, questo devo tenerlo così. Allora, no, rispetto a quello che ho ascoltato, no, che adesso l'intervento di Pier Giorgio, l'ultimo è stato molto, molto, molto centrato e molto ci sarebbe da dire su Virilio, no? Che appunto ha accompagnato, come ricordava Tiziana, tutta la nostra esperienza. Come? C'è Cosimo, scusate, ci interrompiamo per riapprofittarne e ridargli la parola prima che scompaia di nuovo. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Sì. Io stavo continuando a parlare da solo, poi mi sono accorto che... Allora, sei arrivato, te lo dico io, alla ricostruzione in Francia della questione dell'igienismo. Sì, allora, quindi riprendendo da... ok. Da Kipfer, giustamente. Sì, allora... L'igienismo, stavo riprendendo l'analisi, la definizione di Kiefer e una narrazione che trasforma un'analisi medica e sociale delle condizioni di salute degli abitanti in un'ideologia sanitaria che considera le classi subalterne e i popoli colonizzati come elementi patogeni, quindi una che patologizza le classi subalterne e soprattutto se si concentrano nei loro habitat geografici, tra virgolette, naturali. E questo l'igienismo quindi comporterebbe un determinismo spaziale che afferma che la forma urbana sarebbe la causa dei problemi sociali. Da questo vengono dedotte delle soluzioni spaziali che tengono innanzitutto a separare le classi dominanti e gli amministratori coloniali da una parte dalle classi popolari o dai popoli colonizzati. Spesso però anche queste strategie cercano anche di dissolvere l'habitat popolare stesso. Quindi allora l'igienismo nasce in Francia all'inizio del XIX secolo, nel periodo della prima industrializzazione francese, fino a costituire quindi quello che è stato definito l'età igieniste. Quindi la Francia del XIX secolo è stata anche definita da Rosan Vallon l'età igieniste. Quindi come, e può essere considerato come un dispositivo di regolazione biopolitica della popolazione francese. L'igienismo attraversa varie fasi. Nella prima fase abbiamo una sorta di palotologizzazione dell'urbano. L'inizio del XIX secolo, l'industrializzazione, la crescita del proletariato urbano cominciano a, soprattutto a Parigi, cominciano a far nascere quello che può essere definito come uno stato d'emergenza sanitario, urbano, e l'urbano in quanto tale viene percepito come, come fonte di malattia, come fonte di insicurezza e malattia. L'igienismo, ora piccola parentesi, ha sempre una matrice rurale. Nel pensiero igienismo c'è una matrice ruralista che pensa di applicare quindi una forma rurale come forma più adatta del controllo della popolazione di ruralizzare l'urbano. Questo lo vedremo soprattutto dopo nel dibattito sulla creazione del logement social. Ora, la prima rottura, all'inizio l'igienismo non si occupava quindi solamente dell'ambiente urbano, dello spazio urbano inteso come spazio materiale, ma non arrivava a definire, a prendere in considerazione lo spazio sociale. Questa prima rottura avviene nel 1832, quando c'è la prima epidemia di colera in Francia, quindi vista i metodi che allora erano presi in considerazione non erano efficaci a far fronte alla malattia, quindi gli igienisti cominciano a interessarsi anche quindi allargare il loro orizzonte verso lo spazio sociale. Le indagini degli igienisti scoprirono una relazione tra aumento della mortalità e densità degli abitanti di un alloggio e in generale tra indigenza e morte. Però le cause della malattia venivano rintracciate nelle condotte morali delle classi popolari, alcolismo, promiscuità, prostituzione. Quindi il colera diventa la malattia del proletariato urbano, una malattia politica e sociale che provocò una serie di insurrezioni popolari anche. Quindi da una parte e dall'altra la rabbia, il colera fu anche una... la crisi prodotta dall'epidemia fu rivelatrice degli antagonismi di classe che essa contribuiva a esacerbare. Una prima risposta, quindi la borghesia dell'epoca quindi comincia a temere non solamente quindi, l'ira popolare, ma anche l'aria viziata che emanava dai quartieri popolari. E una prima risposta fu l'esclusione, quindi si può essere le classi popolari vengono patologizzate, vengono considerate come agenti patogeni. Quindi Haussmann può essere letto come all'interno di questa forma di esclusione e segregazione, quindi anche igienista, delle classi subalterne. La prima legge sugli alloggi insalubri del 1850 sarà uno strumento che verrà utilizzato per facilitare l'espropriazione e l'allontanamento delle classi popolari dal centro di Parigi. In questo momento siamo di fronte anche a dei racconti, delle narrazioni che razzializzano, tra virgolette, le classi subalterne. Vengono denominati barbari dell'interno, beduini della metropoli, gli insorti sia i canua che sia gli operai insorti a Lione nel 1831 che gli insorti parigini nel 1848. Quindi l'intervento urbano di segregazione è una prima risposta per cacciare quindi i barbari dal centro, quindi produzione di uno spazio segregato e emersione della prima forma di città di urbanismo borghese, quindi che il modello osmaniano. Un'altra rottura avviene nella Terza Repubblica, dove dopo il crollo della guerra di fronte del Secondo Impero e la sconfitta della Comune, e quindi si afferma in maniera preponderante il tema della degenerazione e le classi subalterne vengono definite come classi degenerate. Jules Simon, uno dei protagonisti di questa fase, scriveva: le case insalubri sono delle case dove si fabbrica la peste fisica e la peste morale. Ora un popolo non è mai morto della peste fisica, ma non ha mai resistito alla peste morale. Senza spazio domestico non c'è famiglia, senza famiglia non c'è morale e senza morale non c'è patria. Abbiamo in questo momento c'è una declinazione anche nazionalista del discorso igienista. Quindi le classi subalterne non sono solo una minaccia, ma è necessario quindi disciplinarle. Quindi gli igienisti mettono in avanti delle strategie che sono una forma di eugenetica della forza lavoro. È necessario quindi non solo escludere le classi popolari, ma creare una frattura innanzitutto tra classi pericolose e classi laboriose, quindi disciplinare una parte del corpo operaio anche in chiame nazionalista, quindi gli interventi nella scuola, la scuola pubblica, che era una delle conquiste della Comune, viene recuperata in senso nazionalista, tutti gli interventi sulla ginnastica scolastica, le riforme sull'esercito e gli interventi urbani agiscono anche in questo quadro, la decisione di distruggere la zona non edificandi, la zona che circondava i confini parigini, sia soprattutto il dibattito sull'alloggio popolare, sull'alloggio sociale. Negli anni Ottanta del XIX secolo gli anni dove la casa, la lotta per la casa, la lotta nello spazio urbano, le lotte urbane diventano le lotte centrali dei movimenti anche anarchici e socialisti. La risposta a queste lotte è, da una parte, la repressione attraverso le leggi scellerate del 1890 e dall'altro anche una forma di disciplinamento igienista attraverso la creazione della prima legge sull'alloggio sociale. Però qual è la lo spirito della legge viene, ad esempio, può essere espresso in questa citazione di Jules Siegfried, che è uno dei promulgatori di questa legge, che proviene dall'esperienza igienista del Musée Social. Siegfried scrive che l'operaio proprietario, diventato economo, previdente, guarito dalle utopie rivoluzionarie e socialiste, definitivamente strappato via dal cabaret. Qual è l'obiettivo della prima legge sull'alloggio sociale? Da una parte favorire l'ascensione alla proprietà di una parte del corpo operaio, rendere l'operaio proprietario, dall'altra, anche nella costruzione delle case e caserme, di case collettive, mettere in piano tutta una serie di dispositivi spaziali per evitare le relazioni di vicinato, evitare lo spazio poroso, quindi le classi subalterne, quando si hanno una concentrazione elevata e soprattutto hanno delle forme di relazioni che non sono disciplinate da dispositivi spaziali, sono considerate pericolose. Quindi necessità di mettere in piano delle dispositivi per evitare che la concentrazione delle classi subalterne diventi una minaccia. Da un lato, quindi, abbiamo disciplina di una parte del corpo operaio, dall'altro un'alterizzazione di una parte delle classi subalterne, il momento in cui avviene una legislazione contro i nomadi, contro gli apaci, gli zonard, o un'alterizzazione che avviene nei confronti del colonizzato. Quindi questo periodo è l'apogeo del colonialismo francese, quindi alterizzazione, quindi attraverso controllo poliziesco e anche costruzione dell'identità del buon lavoratore in opposizione all'altro, quindi che è considerato quindi alla classe pericolosa. E questa quindi segregazione, esclusione delle classi pericolose da un lato, atomizzazione, disciplina e nazionalizzazione delle classi laboriose dall'altro, sono le linee guida della strategia igienista, che verranno riprese anche dall'urbanismo funzionalista coloniale e che strutturano anche le strategie neocoloniali attuali. Parlo dell'urbanismo funzionalista perché appunto l'igienismo è la matrice soprattutto del CIAM, cioè la Carta di Atene, che nella Carta di Atene arriva a codificare la nozione di città igienista, città funzionale, come modello di progettazione urbana. Come gli igienisti all'inizio della Terza Repubblica avevano declinato l'intervento di lotta contro la degenerazione dall'altro, così Le Corbusier, l'architettura e l'urbanistica in Le Corbusier divengono strumenti per quello che potremmo definire un processo di sussunzione della società allo Stato, al capitale, processo che nel secondo dopoguerra fu portato avanti dal neocapitalismo, ma che tra le due guerre fu interpretato al meglio dal fascismo. Ricordiamo soprattutto la matrice fascista. Cosimo, cortesemente, ancora 5 minuti. Grazie. Ok. Su questo volevo solo dire ciò che aveva l'obiettivo di Le Corbusier, anche l'azione rientra nella distruzione dello spazio poroso, e Le Corbusier ha una orrore verso la città porosa e la strada sinuosa, simbolo di un passato negativo, scrive Le Corbusier. Le curva è rovinosa, difficile, pericolosa, essa paralizza. La strada curva è il cammino degli asini, la strada dritta è il cammino degli uomini. Quindi l'urbanista detestava la strada, elemento materiale che aveva attraversato per secoli la struttura viva della città, quindi la soluzione la soluzione propostate dalle Corbusier sono radicali: sono distruggere centri antichi, sopprimere strade e cortili, costruire in altezza, in mezzo a spazi verdi, e attraverso il metodo dello zonage quindi a partire dalla riduzione dell'attività umana alle quattro funzioni principali: abitare, lavorare, divertirsi, circolare. Ora ritornerò poi in seguito anche su questo. Il funzionalismo poi ha una matrice anche coloniale, essendo stato sperimentato per primo in alcune colonie francesi come il Marocco, però la specificità dell'urbanismo coloniale è nella distinzione tra città europea e città indigena che verrà poi ripresa anche nelle metropoli. Ora, quello che poi mi interesserebbe approfondire riguarda soprattutto alcune pratiche che vengono portate avanti ancora nel contemporaneo. C'è una continuità in Francia anche nelle nuove metodologie di politica urbana, che quindi sta nell'intervento spaziale dello Stato come metodo potenziale di disorganizzazione della capacità di azione delle classi subalterne e delle classi popolari. E alcune tecniche di governo che vengono sperimentate prima nei confronti delle classi dei popoli colonizzati o razzializzati diventano poi dei paradigmi di governo. Quindi sarebbe importante interrogarsi su quello che veniva detto in altri interventi sulla la militarizzazione, la medicalizzazione del corpo urbano e sociale come prospettiva di governo. Cosimo, abbiamo l'incidente, nel senso che qui sta per arrivare un bel temporalone, per cui noi adesso faremo il break, comunque, in modo che ci mettiamo al coperto tutti. E riprendiamo se è possibile successivamente, perché rischiamo tutti di fare una doccia collettiva da un momento all'altro. E quindi ti richiamo io come riprendiamo, d'accordo? Va bene. Okay. Grazie. Allora, giusto come ho detto, adesso ci mettiamo tutti in sicurezza, poi direi che vediamo... se è possibile, come riprendere anche informalmente, io direi, uno scambio di idee. Grazie. Ci andiamo lì dentro, no? No, rimaniamo fuori. Ci riprendiamo qua.